Da quando si scende nel granulare più facilmente di quanto si scendano le scale di casa, lo stile di governo della materia è cambiato. La società industriale è nata governando il duro, il resistente, l'asciutto, materiali dotati di forma, disponibili a conferire forme che perdurassero nel tempo. Materiali cui nessuno si è mai sognato di attribuire peraltro intelligenza. La società post-industriale maneggia l'informe, il molle e l'umido. Il gel, per esempio. Il gel è qualcosa che, di cui si dice che sembrerebbe più facile da riconoscere che da definire. Si tratta di un liquido trattenuto, come dicono gli specialisti, da una rete di molecole lunghe che gli conferiscono quindi quel minimo di resistenza. Il gel si gonfia e si contrae in rapporto alla temperatura o ai campi elettrici e c'è allora chi ha voluto vedere in questa sua disponibilità ovviamente una forma di intelligenza. Nel mio frigorifero da qualche tempo c'è una busta di un gel azzurrognolo. È pronto in caso di traumi e di chimosi per impacchi freddi vasocostrittivi. Ma se me lo preparo a bagnomaria, diventa una boule dell'acqua calda, assorbe il calore e diventa buono per le lunghe e fredde notti invernali. Gel. I computer rimpiccioliranno, questo è certo e noto, ma meno noto e ugualmente certo è che perderanno in resistenza e guadagneranno in malleabilità. Il futuro è gel. E dei materiali che stortati dalle sventure dell'esistenza, ecco, sapranno riguadagnare pian piano, grazie alla metaforica memoria delle loro molecole, sapranno riguadagnare pian piano la forma originaria. Allo stato dei fatti temo che, se fossi una donna, incontrerei mille difficoltà nella scelta del reggiseno. Per lustro con pazienza, chilometri e chilometri quadrati di grandi magazzini, e mi imbatto in miriadi di reggiseni strutturatissimi, come fossero tutti disegnati dalla Dalmine. Sotto quei cotonini delicati, anche dentro le garze ricamate, noto con preoccupazione la presenza di ferraglia, metalli ormai antichi, piegati a confortare e a confermare la coppa, architetture tubolari cedevoli sì, ma a caro prezzo, residui di quella produzione industriale di cui abbiamo letto il necrologio in più luoghi dotti. Ne starei alla larga. Me ne sentirei il corpo offeso, mi sentirei in gabbia con il peso di due protesi in un segmento del mio corpo dove invece esigerei un minimo di delicatezza. Di lavatura in lavatura poi indagherei poro per poro della stoffa per cogliere i primi segnali di ruggini. Gioco forza estenderei la corruzione di quel metallo nascosto, materiale a me estraneo, all'intero mio corpo. Tuttavia, nella vetrinetta di un reggisenologo di periferia, l'altro giorno ho potuto constatare che anche in questo settore avanza il nuovo. Tanto che se fossi una donna potrei farci anche un pensierino. Erano esposti due reggiseni che non avevo mai visto, muniti entrambi di un ampio e chiaro apparato illustrativo con tanto di glosse a margine. Il primo era offerto nella versione sogno e nella versione fata e veniva vantato come naturale, dermatologicamente testato e pensato per donare una taglia in più in modo innovativo. Tutte caratteristiche che, se non altro, testimoniavano quanto l'evoluzione tecnologica non sia corrisposta da pari evoluzione in ordine ai codici retorici e semantici. Il sogno e la fata sanavano differenze più cospicue nelle favole e per chi lotta per una taglia in più l'ultima preoccupazione è quella di comprendere come si testa dermatologicamente un reggiseno. Fin qui comunque poco o nulla di nuovo. È la quarta caratteristica invece che colpisce. L'imbottitura, l'imbottitura, dice il testo di accompagnamento, è sostituita, e qui ci siamo, da cuscinetti d'olio, glossa lavabile in lavatrice. Il secondo reggiseno si chiamava Simply Soft ed era definito come il primo reggiseno che va bene solo a voi. Dio mio, ci sarebbe da chiedersi il perché tutta la vita, se non fosse che la risposta ovviamente era bella e pronta. Questo reggiseno si modella con il calore del vostro corpo. L'anima dei nostri indumenti dunque passa dalla fisica dei liquidi alla termodinamica. La scienza dei materiali si è impadronita delle nostre intimità, con la pretesa di individualizzare le merci relative. Stanno cercando di convincerci che ciò che ci vendono è tanto plasmabile, tanto intelligente da adattarsi alla nostra singolarità, che è pronto a far parte, questa cosa che ci vendono è pronto a far parte della nostra storia biologica ed accompagnarci in quel che di questa storia ci rimane, che in attesa di nuove e sempre più invisibili molecolarità, oggi intanto c'è l'olio e c'è il calore, ma si guardano bene dal dirci che siamo fritti. I reggiseni Sogno e Fata fanno parte della linea Sì e Lei, un'affermazione che è diventata un nome. Non sarà il massimo, non sarà il massimo dell'individualizzazione delle merci, ma si tratta pur sempre, allora, Sì e Lei, di una linea di reggiseni per fanciulle dal partner miope. Le riconosce, ma soltanto una volta arrivato al reggiseno.